salvami per questa danza. Avanza, io avanzo di una società ingorda. Sono come due rondini senza redini sciolte, capovolte, mani torte al sangue di ere. Funeste di dura suerte, salvami ti prego dalla mia mente, nella mente fuoco e gelo insieme, che germina il seme della parola, trema, tremate, treme, ardite, trame. Storie d'Otello, coltello, fremete, impaurite. Ora gira, giostre, gira, forte, gira, ora sorte, sorda, sorde, grida. Arrivano da una finestra, la porta aperta, ardita, dita si sommano sul piano, Paganini non ripete, tranne sere amate, che ripete lei in memoria sonnolente, sonnolenti, ti ricordi i nostri gemiti in silenzio, ti ricordi i nostri gemiti in silenzio, ti ricordi i nostri gemiti in silenzio. Giostra gira forte, gira, gira forte, ora suerte, sorda, sorde grida, arrivano da una finestra, la porta aperta, ardita, dita, si sommano sul piano, Paganini non ripete tranne essere amati, che ripete lei in memoria sonnolente, ti ricordi i nostri gemiti in silenzio?